Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti, di Roberta Giordano. Bene, se non c'è nessun altro io dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Risultato della votazione: la Camera approva per 109 voti di differenza, quindi è rinviata in commissione. Detto un po' sconsolatamente in finale Luigi Di Maio, lo avete sentito, nel ruolo esponente del Movimento 5 Stelle, nel ruolo di vicepresidente della Camera, oggi ha annunciato che la proposta di legge del Movimento 5 Stelle per tagliare gli stipendi ai parlamentari è stata rinviata. Quindi in discussione e voto sono stati rinviati, con l'indignazione naturalmente del Movimento 5 Stelle e di Battista, indignato, che ha detto: il Parlamento è fatto di gentaglia ignobile. Di questo parleremo molto qui nel corso di Effetto Notte, come anche di altri temi, per esempio questa vicenda delle barricate fatte dai cittadini a Goro e Gorino in provincia di Ferrara contro questo gruppetto di migranti che doveva arrivare, in realtà fatto da 12 donne e 8 bambini, ha suscitato molte polemiche. Alfano che dice questa non è l'Italia, questo non è lo specchio dell'Italia, ma Renzi nella registrazione di Porta a Porta stasera ha detto è difficile giudicare perché capisco la gente che può essere stanca, dall'altra parte si trattava solo di 12 donne e 8 bambini, quindi una situazione controversa. Poi c'è questa apertura definitiva del Vaticano nei confronti della cremazione per quanto riguarda i defunti. Insomma, un sacco di argomenti, come sempre qui a Effetto Notte. Voi potete interagire con la pagina Facebook del programma, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure attraverso il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ma prima di approfondire i vari temi che già vi annunciavo, vediamo che giornata è stata nel complesso. I costi della politica: la Camera vota per il rinvio in commissione della proposta di legge taglia stipendi del Movimento 5 Stelle, scintille in aula tra la maggioranza e gli esponenti del movimento. Di Battista, indignato in piazza con gli attivisti, dice: Parlamento di gentaglia pericolosa. Barricate antiprofughi a Goro dopo le proteste dei cittadini via alle migranti con i loro bambini. Il ministro Alfano commenta: quel che è accaduto non è lo specchio dell'Italia. E Renzi dice: difficile giudicare. La manovra economica è stata inviata la lettera della Commissione europea con la quale si chiedono chiarimenti all'Italia sulla legge di bilancio. L'Europa tutta aiuti l'Italia sui migranti, avverte Renzi, o il governo è pronto a porre il veto sul bilancio europeo del 2017. Monte dei Paschi, tonfo del titolo a Piazza Affari nel giorno della presentazione del piano industriale. Il Vaticano sdogana la cremazione ma pone diverse condizioni, via libera del Papa al documento. Spagna, il re incarica il primo ministro uscente Rajoy di formare il nuovo governo. E per il calcio ritorna da stasera il campionato, in campo Genoa-Milan per l'anticipo della decima giornata. E partiamo, a parte col naso chiuso già dall'inizio settimana, quindi dai costi della politica e dal rinvio della proposta del Movimento 5 Stelle, proposta di legge sul dimezzamento degli stipendi per i parlamentari, che è stata rinviata in commissione su richiesta della maggioranza, 109 i voti di scarto. Contrari invece Forza Italia, Fratelli d'Italia e Sinistra Italiana, una decisione inaccettabile secondo la prima firmataria della proposta, Roberta Lombardi del Movimento 5 Stelle, secondo la quale la misura consentirebbe un risparmio fino a 87 milioni di euro l'anno. Ad assistere alla votazione in tribuna anche Beppe Grillo alla Camera, che ha applaudito ironicamente dicendo: bravi. Di Battista, deputato del Movimento 5 Stelle, si è detto indignato e ha commentato: è un Parlamento di gentaglia pericolosa. Tra poco, come dicevo, torniamo su questo rinvio e sulla seduta particolarmente tesa oggi alla Camera. E a questo proposito, nella puntata registrata di Porta a Porta di stasera, il presidente del Consiglio Renzi ha chiesto a Bruno Vespa di invitarlo insieme a Grillo per un confronto. Nel corso della puntata Renzi ha parlato anche della lettera attesa da Bruxelles per i rilievi sulla manovra economica italiana, lettera che si è appreso stasera è partita in direzione dell'Italia, è stata inviata dalla Commissione europea. E ha detto Renzi, fra le altre cose: l'Europa tutta aiuti l'Italia sui migranti, o il governo è pronto a porre il veto sul bilancio europeo del 2017. Ragazzi, non ce n'è? Adesso questo meccanismo, 20 miliardi da mettere, 12 da prendere, è finito. Pronto a mettere il veto? Assolutamente sì, onori e oneri insieme anche da parte degli altri. È troppo facile quello di prendere i nostri soldi e poi dire: no, però noi facciamo i muri. Sai che c'è? I contanti non passano dai muri, il bonifico non passa dai muri. Se tu tiri sul muro per i migranti, ma i soldi italiani te li scordi. E dopo le notizie dell'invio ufficiale appunto stasera della lettera della Commissione Europea, il ministro dell'Economia Padoan ha spiegato: la lettera della Commissione arrivata è assolutamente normale per noi, gli altri paesi che l'hanno ricevuta ci chiedono chiarimenti su aspetti centrali delle misure, in particolare terremoto e migranti, sottolineando Padoan che la manovra sarà mantenuta. L'Italia, si legge nella lettera, deve rispondere ai chiarimenti chiesti dalla Commissione Europea sulle cifre della legge di bilancio entro giovedì sera 27 ottobre. Questo è quanto si legge appunto nella missiva inviata dal ministro Padoan dai commissari europei Dombrovskis e Moscovici. La lettera, oltre all'Italia, è stata inviata, come diceva appunto Padoan, anche ad altri paesi: Belgio, Cipro, Spagna, Portogallo, Finlandia e Lituania. E sulla manovra intanto ci sono novità in arrivo anche su tempi e contenuti. Riparte la voluntary disclosure secondo i tempi stabiliti dal decreto fiscale. Le domande per l'emersione dei capitali potranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate fino al 31 luglio 2017. Chi intende inviare già da oggi l'istanza di accesso alla nuova procedura potrà utilizzare il vecchio modello approvato dall'Agenzia il 30 gennaio 2015 e trasmetterlo esclusivamente per via telematica. La legge di bilancio intanto dovrebbe essere presentata alla Camera entro sabato. Il Governo sta infatti ancora limando il testo della legge per la messa a punto delle aperture dei provvedimenti. La manovra quindi potrebbe approdare dal 24 novembre in discussione nell'aula della Camera. Il condizionale è d'obbligo perché la manovra non è ancora arrivata in Parlamento e la conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha stilato oggi il calendario supponendo che la legge di bilancio sia consegnata in settimana. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Stanno tra l'altro emergendo altre novità sulla bozza della manovra economica. Per esempio, leggo adesso: un bonus di 800 euro, un premio nascita alle future mamme al settimo mese comunica di essere incinta. 800 euro, questo è una delle misure, per esempio. Poi insomma stanno arrivando moltissime, sarebbe lungo. Per esempio l'app social, cioè l'anticipo pensionistico sociale anche per camionisti e ferrovieri e molte altre cose. Poi ci sarà modo di parlarne. Parliamo del Monte dei Paschi adesso. C'è stato un dietro front del titolo in borsa al termine della giornata, nella quale sono stati annunciati i numeri del piano e della trimestrale. Il calo è stato pari al 14,99%. Massima apertura a considerare chiunque sia in grado di dare un contributo all'operazione e al rafforzamento patrimoniale della banca. Il neo amministratore delegato di MPS, Marco Morelli, è pronto a valutare qualsiasi proposta possa garantire il successo del piano di salvataggio del Monte dei Paschi. Sul tavolo lo scorporo di 27 miliardi di sofferenze e l'aumento di capitale fino a 5 miliardi da realizzare entro fine anno. Al via dunque gli incontri con gli investitori. L'aumento, che andrà in assemblea il 24 novembre, include la conversione dei bond su base volontaria, aperta a tutti, un'offerta sul mercato, la ricerca di potenziali coinvestitori. L'obiettivo, una volta finito il cammino, è tornare a fare la banca radicata sul territorio, orientata al retail e alle imprese, spiega la D. I target al 2019 prevedono un utile sopra il miliardo di euro, contro una perdita quest'anno di 4,8 miliardi, attesi 2.600 esuberi, 300 assunzioni e la chiusura di 500 filiali. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E arriviamo alla vicenda delle barricate antiprofughi a Goro, in provincia di Ferrara. Dopo le dure proteste dei cittadini, sono state ricollocate altrove le migranti con i loro bambini, 12 donne africane e i loro 8 figli. Il ministro dell'Interno Alfano ha sottolineato: quel che è accaduto non è lo specchio dell'Italia, mentre Renzi, sempre nella puntata registrata di Porta a Porta, sottolinea: è difficile giudicare, da un lato c'è un atteggiamento di comprensione, anche se non di condivisione, verso una parte della popolazione che è molto stanca, dall'altra, dice Renzi, parliamo di 12 donne e 8 bambini che sono stati comunque sistemati. Forse, dice ancora il Presidente del Consiglio, è mancato qualcosa sia da parte nostra, dello Stato, ma anche del dialogo nel merito. Poi vi dicevo, ritorneremo più tardi qui a Effetto Notte su questo caso e sulle polemiche emerse. E a proposito di migranti, non si arresta il numero delle vittime delle traversate nel canale di Sicilia. Oggi sono stati recuperati al largo delle coste libiche 13 cadaveri e il bilancio sale quindi a 55 morti negli ultimi 10 giorni. Sempre oggi sono state salvate circa 500 persone che erano a bordo di 4 gommoni diretti verso l'Italia. Dall'estero, la giustizia americana ha approvato il patteggiamento da 14,7 miliardi di dollari di Volkswagen per lo scandalo delle emissioni diesel. L'accordo prevede anche il riacquisto da parte della casa tedesca di 475.000 auto a partire da novembre. Dalla Spagna adesso, re Felipe VI ha incaricato il leader del Partito Popolare e premier uscente Mariano Rajoy di tentare di formare il nuovo governo. Sapete che in Spagna vaca da un po' questo governo, lo ha riferito lo stesso Rajoy dopo un incontro con il capo dello Stato. E poi una notizia che riguarda l'Iraq: i cacciatori di bombe artigianali dell'ISIS, quelle bombe che hanno mietuto più vittime tra le forze curdo-irachene nella battaglia contro il sedicente Stato Islamico, sono addestrati, questi cacciatori di bombe, a Erbil da militari italiani inquadrati nell'operazione Prima Partica, nella base dell'aerea, in questa area residenziale in disuso. I Peshmerga imparano a individuare i temutissimi LED, queste trappole antipersona, mine e gli ordigni a pressione, tra i più micidiali perché di fatto invisibili. Quindi questo team addestrati sono in prima linea nell'offensiva su Mosul e sono appunto addestrati da soldati italiani. Il Vaticano che sdogana la cremazione, arriva via libera ufficiale della Chiesa. È stato pubblicato oggi l'atteso documento della Congregazione per la Dottrina della Fede su sepoltura e cremazione. Potrà essere quindi una delle modalità per salutare i defunti, ma a determinate condizioni: che le ceneri non vengano disperse, che siano comunque seppellite in un cimitero o altro luogo sacro. Questo secondo la Chiesa e il Vaticano. Dopo, nel corso di Effetto Notte, approfondiamo meglio anche questo argomento. La cronaca: le cosche di 'Ndrangheta dietro i padiglioni di Expo di Cina ed Ecuador e ancora dietro l'ipermercato di Arese. La direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha sequestrato beni per 15 milioni di euro. A questo punto sono già 5 i padiglioni di Expo su cui si allungano le ombre delle mafie. Ad un anno dalla conclusione dell'esposizione universale si scopre infatti che dopo quelli di Francia, Qatar e Guinea, entrati nell'orbita di uomini vicini a clan siciliani, secondo la procura di Milano, anche le strutture di Cina e Ecuador sarebbero finiti tra gli interessi dei boss, stavolta calabresi. Ci sono infatti anche questi appalti, oltre a quelli per le infrastrutture di base per Expo e poi per la realizzazione del centro commerciale di Arese, uno dei più grandi d'Italia, e ancora un subappalto per Ferrovie Nord e del consorzio di Bereguardo, tra quelli contestati ad una trentina di indagati a cui sono stati sequestrati dall'antimafia di Reggio Calabria beni per 15 milioni. La regia degli investimenti dell''Ndrangheta anche in questo caso è nella Locride, ma gli affari erano rivolti verso ogni occasione di guadagno, sia al nord dunque che all'estero, in un resort della Romania o in un immobile del Marocco. E se qualcuno provava ad ostacolare le loro mire, tanto in Italia quanto fuori, la risposta è sempre la stessa: la violenza. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso parliamo anche della classifica dei paesi più generosi. I birmani sono i campioni, di beneficenza, e gli iracheni sono i più gentili verso il prossimo di qualsiasi altro popolo al mondo. Pensate per come stanno. E quanto emerge dalla classifica 2016 dell'Indice Mondiale di Generosità della Charities Aid Foundation, che mostra l'Italia all'82esimo posto su 140 paesi in fatto di donazioni e al 101esimo posto sul fronte dell'altruismo. Negli ultimi 10 mesi 8 iracheni su 10 hanno aiutato uno sconosciuto. Nello stesso periodo, ben il 91% della popolazione birmana ha dato soldi ad associazioni caritatevoli. Negli Stati Uniti, che è il secondo paese più generoso al mondo dopo i birmani, il 63% degli americani ha fatto beneficenza e il 73% ha aiutato il prossimo. Per chiudere, lo sport con il ciclismo: il Giro d'Italia numero 100 prenderà il via il 5 maggio 2017 da Alghero. 100 anni di storia condensati in 21 tappe in oltre 3.000 km, da venerdì 5 al 28 maggio, un giro duro e selettivo che piacerebbe molto a Chris Froome, ma che in ogni caso piace a Vincenzo Nibali e Fabio Aru. Dal prossimo anno, fratelli contro. Dopo le 3 tappe sarde in onore di Fabio Aru, la carovana rosa sbarcherà in Sicilia e saranno subito fuochi d'artificio con l'arrivo sull'Etna. Dopo l'omaggio a Nibali con l'arrivo a Messina, si riparte da Reggio Calabria per salire la penisola toccando Terme, Lugiane, Alberobello e Peschici prima di un altro arrivo in salita, il secondo sul Blockhouse. Per la cronaca, 6 saranno gli arrivi all'insù. Prima sfida contro il tempo con la Foligno-Montefalco, tutt'altro che semplice, coi suoi 39 km di continui saliscendi. La settimana decisiva si apre con un autentico tappone, la Rovetta Bormio con Mortirolo e la doppia scalata dello Stelvio. Poi il grande finale con la crono da Monza a Milano, 28 km da percorrere per dare il volto definitivo alla graduatoria del giro numero 100. Piero Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. Ancora lo sport con il calcio per chiudere questo riassunto della giornata con Dario Ricci, anticipo della 10ª giornata. Dario? Sì, esatto, Roberta, pedala in salita il Milan, tanto per rimanere in tema, perché alla mezz'ora Marassi e il Genoa in vantaggio per 1-0, decide finora la rete del serbo Ninkovic all'11esimo, Rincon, il genuano Rincon da destra rientra sul sinistro, cross al centro e a centro area tutto solo Ninkovic di testa batte Donnarumma, che pensa il portiere milanista, fra poco diciottenne, compie quest'anno un anno di Serie A, ha esordito proprio 366 giorni fa e di strada ne ha fatta, però non è riuscito a evitare il gol sul colpo di testa di Ninkovic. Siamo quindi al 31esimo, a Marassi Genoa 1 Milan 0. Grazie Dario Ricci, poi vediamo se il risultato prosegue o cambia più tardi, intanto i vostri messaggi prima della viabilità alla pagina Facebook di Fettonotte a 349-238-6666, le vostre riflessioni per esempio sul caso di Ferrara, di cui parleremo tra poco, provincia di Ferrara. Simone dice: bisogna vedere la situazione, se ne hanno già troppi di migranti e ci sono gravi problemi in essere, oppure se sarebbero stati i primi a giungere. In ogni caso la reazione è eccessiva e preoccupante, la stessa che avviene in Inghilterra con i migranti di Calais. Elena dice: due riflessioni, la Pietas è morta e se diventassimo noi un teatro di guerra e quindi degli eventuali profughi, è chiaro che l'Italia da sola non ce la può fare, ma questo episodio è disumano. Ne parleremo dopo fra i vari argomenti, intanto viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie ve le ho raccontate, le più importanti nel riassunto della giornata, come sempre all'inizio, con Effetto Notte, Roberta Giordano con voi. Poi vi ricordo i titoli principali, non tutti riescono a accendere puntualmente alle 21, ma mi raccomando, siate presenti per non dover dire un giorno: io quella notizia non la sapevo. Ancora i vostri messaggi tra la pagina Facebook di Effetto Notte e gli sms WhatsApp al 349-238-6666. Continuano ad arrivare le vostre riflessioni, le vostre osservazioni sul caso di Goro e Gorino, dove ci sono state le barricate antiprofughi. Francesco dice: troppo facili le condanne buoniste, è anche opportuno interrogarsi sul perché di tali reazioni e sulla maniera in cui lo Stato gestisce i flussi migratori. Proseguite, io intanto, prima di approfondire i vari argomenti, vi ricordo quali sono le notizie più importanti. È stata inviata all'Italia l'attesa lettera dell'Unione Europea per i rilievi sulla manovra economica. Bisogna innanzitutto chiarire sul sisma e sui migranti. Entro giovedì è la richiesta. L'Italia deve dare questa risposta. Renzi avverte: ci aiutino sui migranti o il veto, opporremo il veto sul bilancio europeo del 2017. Poi nel Ferrarese vincono le barricate, 12 donne profughe mandate via insieme ai loro bambini. Alfano dice: questa non è l'Italia, per la Lega i manifestanti sono eroi. Rinvio per il disegno di legge taglia stipendi dei parlamentari, la proposta del Movimento 5 Stelle, lite tra il Movimento e il PD e Renzi sfida Grillo in TV, dice: confrontiamoci su questo argomento in televisione. E poi l'ONU che denuncia le atrocità dell'ISIS a Mosul, chiese devastate e civili usati come scudi. E poi Caprotti, il defunto Caprotti, il fondatore dell'S Lunga, lascia 75 milioni alla segretaria e ai 5 nipoti invece 15 milioni a testa. E poi la Chiesa che non vieta la cremazione, ma dice no alle ceneri in casa, non disperderle, non farci gioielli, è meglio la sepoltura. Poi avete sentito l'anticipo di Serie A Genoa-Milan, per il momento conduce il Genoa per 1-0. Bene, se non c'è nessun altro io dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Risultato della votazione: la Camera approva per 109 voti di differenza, quindi è rinviata in commissione. Quindi l'avete sentito Di Maio, l'avete sentito anche all'inizio, nel suo ruolo di vicepresidente della Camera, ha detto che la proposta di legge del Movimento 5 Stelle sul dimezzamento degli stipendi dei parlamentari, il voto e la discussione sono stati rimandati, rinviati. L'Aula della Camera infatti con 109 voti di scarto ha approvato la richiesta di rinvio in commissione della proposta di legge. Una seduta odierna che vedeva appunto all'ordine del giorno come primo punto la discussione di questo disegno promosso dal Movimento 5 Stelle e che ha come prima firmataria Roberta Lombardi, e quindi si è aperta, diciamo, si è aperto uno scontro tra il PD, tra la maggioranza e il Movimento 5 Stelle. Scintille, come ci conferma la nostra Betta Fiorito, Elisabetta Fiorito da Roma. Ciao Elisabetta. Buonasera, buonasera radioascoltatori. Beh, insomma, è stato un po' un Movimento 5 Stelle che ha protestato in aula e anche fuori dall'aula. Perché? Perché questa proposta per il taglio netto delle indennità dei parlamentari del 50% non è stata accolta dal PD, che l'ha bollata con demagogia. Per il PD, per il premier Matteo Renzi, si deve studiare qualcosa di diverso, magari punire i deputati assenteisti con un taglio di indennità a seconda delle assenze in tra aula. L'altro, scusa Beta, a proposito di assenze, oggi sul Corriere c'era l'intervista a Ghedini, il parlamentare di Forza Italia, è stato avvocato di Berlusconi, che presenta dello 0, qualcosa insomma, nel suo caso, no? Sì, diciamo che ci sono stati dei deputati e dei senatori molto assenti, perché poi alla fine magari venivano quando c'era da votare una fiducia o quando c'era una votazione importante, e poi in realtà continuavano a svolgere, soprattutto come una persona come Ghedini, che aveva un suo studio ben avviato e ben remunerato, anche un doppio incarico, quello lì della sua vita professionale. Bisogna scegliere a un certo punto. Oggi c'è stato Guerini, che invece è uno record man in Parlamento del PD, dice, perché dal PD dice sì, io lo so, io sono una scanalista. Allora la polemica un pochino, no? Ovviamente ha sullo sfondo sempre la battaglia sul referendum, quindi sul referendum costituzionale, per cui ovviamente Beppe Grillo è arrivato a Roma lancia e resta, si è messo nella tribuna riservata al pubblico per ascoltare tutto il dibattito. Si sapeva già dalla mattina che si sarebbe votato questo rinvio in commissione, perché il PD non voleva arrivare a un voto, cioè non voleva arrivare a una bocciatura, ma non voleva nemmeno dare diciamo spazio al Movimento 5 Stelle in un momento delicato, no? Di battaglia referendaria, perché sul principio sono tutti d'accordo, sul come non si sa. Detto questo, c'è anche da dire che però la CEI si è schierata per un taglio dello stipendio dei parlamentari, quindi credo anche la gran parte del popolo italiano lo vedevo anche dai messaggi che questi stipendi siano troppo alti, questo è vero, siano troppo alti rispetto a cosa? Cioè non rispetto a quelli europei, perché gli italiani sono per esempio al quinto posto, l'hanno detto oggi appunto nell'ufficio tecnico della Camera. Sì. Però rispetto agli stipendi della vita reale, quindi noi parliamo di uno stipendio che è 10 volte superiore. Allora, per esempio Codacons, scusa Beta Fiorito, Codacons in uno studio dice che lo stipendio lordo mensile tra indennità parlamentare, diaria e rimborso di trasporto supera i 16.000 euro lordi. E quindi stiamo parlando di 8.000 euro netti al mese. Ora io non so, Roberta, sì, mi dica. Io francamente sì, non l'ho mai visto in vita mia. No, neanche io, e non li vedrò. Non li vedremo. E io credo che la maggior parte degli italiani sta insomma su degli stipendi molto molto più bassi, anche tra i 1.000-1.500 euro. Immaginiamo, no, un professore che ha studiato all'università e che insegna a scuola e che guadagna 1.500 euro. Allora è vero il populismo, però è una delle battaglie storiche del Movimento 5 Stelle, e questo bisogna dirlo da una parte. Fra l'altro, Renzi, sempre in questa registrazione della puntata di stasera Porta a Porta, ha detto: siamo pronti a ridurre gli stipendi dei parlamentari legati alle presenze, ma non sia un giochetto del Movimento 5 Stelle, quindi capisce che è un tasto, diciamo, che ha un suo perché. No? Ed era l'altra parte. Cioè, invece, secondo il PT va tagliato a secondo delle presenze in aula perché, o delle presenze in commissione anche, direi io, dove poi si scrivono materialmente le leggi. E questa può essere anche un'ipotesi. Ieri Brunetta ha fatto una provocazione molto divertente, diciamo, un po' classista, in cui diceva che lo stipendio, per esempio, del parlamentare dovrebbe essere quello che lui aveva prima di entrare in Parlamento, e se era disoccupato doveva avere reddito di cittadinanza. Questo era un po' uno schiaffo ai 5 Stelle. Molti sono stati giovani, sono stati eletti e hanno adesso questo stipendio, però è vero pure che se sono stati eletti è perché gli italiani li hanno eletti, e quindi hanno tutto il diritto di avere quello stipendio. Allora, senza prendere le parti per l'uno o per l'altro, in sostanza il Movimento 5 Stelle chiaramente recepisce un malessere nel paese di tutti quanti noi per degli stipendi che sono considerati troppo alti rispetto al livello medio della vita in Italia. Dall'altra parte il PD boccia questa proposta come populista in un ambito di riforme costituzionali che tagliano 315 senatori e quindi tagliano anche lo stipendio a 315 senatori. Quindi dice, i risparmi ci sono e bisogna legarlo alle presenze in aula, cioè fare una legge per il virtuosismo parlamentare. Ora in mezzo ci si è messa la discussione parlamentare, Beppe Grillo ovviamente è stato apostrofato in aula da Rosato, che è il capogruppo PD, e gli ha detto sì, ma lei poi deve andare in Campidoglio e quindi bisognava vedere che cosa succede, bisognerà vedere che cosa succede in Campidoglio, dove la sindaca Virginia Raggi allora deve tagliare i costi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma è ci stata si rimpalla una... vicendevolmente, però è chiaro che qualcosa va fatto in questo senso. Di discussione parlamentare tra maggioranza e opposizione, è stata una bella giornata di democrazia, e anche la manifestazione del Movimento 5 Stelle davanti a Montecitorio è stata una manifestazione molto molto composta ma rabbiosa, e secondo me gli stipendi dei parlamentari prima ora o non poi, voglio devono essere prima o poi saranno tagliati e prima o poi dovranno essere tagliati. Questa è la sostanza, Roberta. È chiaro. Grazie Elisabetta Fiorito da Roma. Ciao Elisabetta. Buonanotte. Ciao, buonanotte a te. Adesso invece parliamo di questo via libera ufficiale della Chiesa alla cremazione. Il Vaticano sdogana, come si dice definitivamente, la cremazione. È stato pubblicato oggi infatti questo atteso documento della Congregazione per la Dottrina della Fede su sepoltura e cremazione. Potrà essere quindi un modo di salutare i defunti, ma a determinate condizioni, che le ceneri non vengano disperse, che siano comunque seppellite in un cimitero o altro luogo sacro. Ma naturalmente ci darà più dettagli Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Caro Carlo, buonasera. Buonasera a te Roberta, ciao a tutti. Senti, beh, per lo più si pensa che per la Chiesa sia una specie di veto, che sia un peccato, che non sia possibile. Invece in realtà questo è il via libera definitivo, ma già c'era stata un'apertura della Chiesa in passato su questo? Sì, sì, no, assolutamente, nel senso era una percezione, forse appunto un'idea, però in realtà dal 63 era già previsto che l'allora Sant'Ufficio, che è lo stesso di Castero che oggi ha dato queste istruzioni, stabilì che la cremazione non è contraria alla religione cristiana. Confermato poi nel 1983, non è che dicono diciamo è favorita o è auspicata, diciamo preferiscono che non è la sepoltura, però non sono contrari. Esattamente, cioè è preferita la sepoltura tradizionale, però la cremazione non va contro i principi della dottrina cattolica, cioè ora questo naturalmente per chi ci crede, certo, per chi diciamo ritiene di dover seguire le indicazioni della Chiesa, la cremazione non diciamo non va contro il principio della risurrezione del corpo e di tutte quelle diciamo quei temi che vanno diciamo così al dopo la morte, ecco. Quindi diciamo non ci sono, l'importante dice la Chiesa è che non ci sia diciamo intenti di altro tipo, ora senza scendere in questi principi filosofici, panteistici, naturalistici, cioè diciamo se ci sono delle tradizioni, una volontà diciamo di essere cremato perché oppure delle questioni diciamo delle tradizioni locali o culturali, la Chiesa dice, potete farlo, però messo in un luogo sacro, l'urna, questa è la regola. O diciamo il parroco può, anche credo con la dispensa del vescovo, può diciamo autorizzare il mantenimento in casa, ma è diciamo un'eccezione. Questa è un'eccezione. Sicuramente non la dispersione nel mare, in montagna, tutte queste cose si vedono anche nei film. Questa la Chiesa non dice che non va fatto. E se il defunto l'ho lasciato in delle istruzioni, diciamo nel testamento, in teoria gli potrebbero essere negati i funerali religiosi. Questa è un po' la regola messa oggi in questo documento definitiva, diciamo. Questo peraltro è interessante perché il primo documento diciamo del papato di Francesco emesso da questo di Castero, che è quello il custode dell'ortodossia cattolica, si chiama la dottrina della fede, è il primo perché diciamo nei papati precedenti erano abbastanza usuali, evidentemente questo papa ha chiesto una diciamo una normazione molto meno frequente, quindi però questo evidentemente era un tema. Qualche anno fa ci fu la CEI, la conferenza episcopale, che aprì un po' a questo tema, poi anni dopo, stiamo parlando del 2009-2012, poi diciamo richiuse subito perché evidentemente andava contro diciamo, i principi generali. Allora, quindi per ribadire, le ceneri dei defunti si possono cremare, ma non possono diventare oggetto di culto in casa, un'urna. Si sono visti anche dei film anche comici con queste ceneri che fanno delle fine diciamo così anche disdicevoli, oppure farci dei gioielli, metterli dentro dei ninnoli o cose del genere. La Chiesa dice questo no, poi naturalmente se uno Non credo. La Chiesa può fare quello, fa quello che vuole. Grazie Carlo Marroni, Vaticano Sole 24 Ore. Ciao Carlo. E bisogna dire che in Italia, fra l'altro, per quanto riguarda il rito laico, cioè al di là di coloro che non sono, credenti o che non ritengono di doversi attenere a queste regole della Chiesa, sappiano che ogni regione ha un suo regolamento, perché per esempio in Lombardia si possono disperdere anche nell'ambiente le ceneri, in altre regioni no. Insomma, va veramente, cambia da regione a regione, se non addirittura da comune a comune. Poi c'è questo studio del Codacons, dell'Associazione dei Consumatori, che dice che la cremazione in Italia è in continua espansione, ma nonostante questo il nostro paese rimane il fanalino di coda d'Europa, come ci conferma Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buonasera Rienzi. Sì, buonasera a voi. Quindi in Italia, effetti, diciamo, è una modalità ancora poco utilizzata. Sì, è una modalità poco utilizzata perché sono molti i cattolici, e credo che i cattolici siano rimasti anche un po' male per quello che ha fatto il Papa, il gesto, diciamo, di apertura, dice. Perché un po' delusi, no? Perché io credo che, perché quello, l'esperienza nostra è che chi non si fa cremare è perché pensa che ovviamente dopo c'è un'altra vita, e dice: ma se mi faccio cremare, come faccio poi? Che succede? Che sarò la polvere? Che mi aggirerò? Però probabilmente la Chiesa ritiene che si possa risorgere anche una volta cremati. Sì, no? Però le persone semplici, diciamo, quelle che sono vicine alla Chiesa, secondo me invece hanno molta paura di questo, e questo è il motivo di questa bassa percentuale, che è lontanissima da percentuali come, non so, in Inghilterra siamo al 70%, qui siamo al 21% addirittura. Quindi una questione culturale e religiosa, dice. È una questione culturale e religiosa, e adesso con questa posizione del Papa sicuramente aumenterà, perché poi è utile, perché sappiamo che il problema nasce dalla mancanza di spazi. Spazio, e forse anche dai costi in alcuni casi. Costi, ma oddio, la cremazione costa pure quella, non è che non costi. Però avere bara, un loculo, sì, una poi un loculo, addirittura ci sono dei racket, delle tombe, delle cose eccetera, quindi questa è una cosa sicuramente positiva da un punto di vista di civiltà, però ecco, un po' spegne alcune speranze, come posso dire. Lei mi pare un po' deluso, Rienzi, sì, a sua volta. Mi sembra che la Chiesa forse poteva continuare a stare in silenzio, accettare, perché così ha dato un po' la delusione. Queste sono le prime impressioni che noi abbiamo dalle reazioni, soprattutto dei cattolici. Interessante la sua. Dal punto di vista, diciamo, di civiltà, siamo ben contenti, perché non si può fare a meno della cremazione, e perché non ci sono gli spazi per poter tenere tutti questi cimiteri. Insomma, libertà di scelta, almeno questo. Grazie Rienzi, grazie presidente di Codacons. Buon lavoro a lei. Buonasera. I vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, per esempio sempre sull'accoglienza, sui profughi. Usare l'accoglienza selvaggia senza l'organizzazione che questa situazione richiede, senza coinvolgere la popolazione a priori, dice un ascoltatore, e non a cose fatte, oltretutto con l'unica intenzione credibile di fare pressione sull'Europa, non è secondo voi niente di più che una forma di forzatura dittatoriale? Ma diciamo che causa di forza maggiore, forse, direi così. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Prendiamo una pausa e ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Continuano i vostri messaggi, la vostra interazione qui a Effetto Notte sulla pagina Facebook del programma, oppure i WhatsApp e SMS al 349-238-6666. Molti sui tagli agli stipendi dei politici, abbiamo detto, appunto, ne abbiamo parlato, di questo rinvio della proposta di legge del Movimento 5 Stelle. Un po' tutti ormai siete d'accordo, mi pare, d'accordo sul fatto che comunque, diciamo, bisogna mettere mano a questi stipendi. Intanto un ascoltatore faceva il calcolo, diceva: i rimborsi sono esenti da tasse, quindi i 16.000 euro lordi diventano 11.000. Poi invece sulla questione, dico, che affronteremo tra pochissimo, dopo che vi avrò ricordato di nuovo i titoli principali, su quella delle barricate a Gore Gorino, Elena scrive: Capalbio, che è località della Toscana piuttosto pregiata, dice si è rifiutata di accogliere immigrati e non è stato uno scandalo, forse perché la protesta proveniva da una crema di sinistra che non vuole essere disturbata quando è in vacanza, così scrive Elena. Ne parleremo tra pochissimo, intanto vi ricordo appunto quali sono i titoli principali della giornata. La manovra economica è arrivata alla lettera dell'Unione Europea per chiarire su sisma e migranti. Entro giovedì la Commissione Europea vuole risposta dall'Italia. Renzi avverte ci aiutino sui migranti o metteremo il veto sul bilancio europeo 2017. Nel ferrarese vincono le barricate, le 12 profughe mandate via. Il ministro dell'Interno Alfano dice questa non è l'Italia. Per la Lega i manifestanti invece sono eroi, ne parleremo a brevissimo. Il rinvio del disegno di legge taglia stipendi dei parlamentari. Lite alla Camera tra Movimento 5 Stelle e PD, Renzi sfida Grillo e dice lo aspetto in TV per un confronto su questo tema. Vediamo se c'è intanto un aggiornamento sulla partita Genoa-Milan che prosegue l'anticipo di Serie A 1-0 per il Genoa. Quindi occupiamoci adesso del caso scoppiato, vi dicevo ieri sera, Goro e Gorino, due paesi in provincia di Ferrara, in Emilia Romagna. Cosa è successo? Il prefetto di Ferrara, Michele Tortora, aveva requisito l'ostello di Gorino per ospitare alcuni migranti, che in realtà erano 12 donne e i loro figli, 8 bambini, ma i cittadini di Goro e Gorino hanno costruito delle barricate ieri in serata, bloccando le strade per impedire il passaggio di questo pullman scortato dalle forze dell'ordine. Alla fine i profughi sono stati dirottati in altre sedi, però le reazioni non sono mancate, la polemica in furia, il ministro Alfano ha detto questa non è l'Italia, non è lo specchio dell'Italia, il presidente della regione Emilia Romagna Bonaccini ha detto sono fatti inaccettabili, quello del ci pensino altri è un pensiero pericoloso, mentre il leader della Lega Matteo Salvini ha twittato io sto con gli abitanti di Gorino. Amaro anche il commento del sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani che ha detto mi vergogno se in un momento come questo il comune come quello di Goro che ha ricevuto molto dalle istituzioni non accoglie 12 donne straniere, bisogna che si rifletta sul significato, dice il sindaco di Ferrara, di collaborazione istituzionale. Ne vorrei parlare con Mattia Sansivini, che è cronista del Resto del Carlino. Buonasera Mattia, ciao. Buonasera a tutti voi. Senti, il prefetto di Ferrara in una conferenza stampa molto pragmaticamente ha detto le 12 donne sono state trasferite in altri 3 comuni di cui manteniamo la privacy, ma la situazione ha detto si ripresenterà a breve visto che sono in arrivo in regione altre 450 persone. Mattia, com'è la situazione lì intanto? La situazione è abbastanza paradossale, innanzitutto perché abbiamo assistito a una scena un po' particolare. 500 persone in strada che alzano una barricata contro nei fatti 12 poco più che ragazze provenienti dall'Africa. Un paese in strada, barricate, grida di rivolta per un nemico alle porte che al momento è sembrato abbastanza esile, cioè quattro ragazze. Dimmi solo una cosa, scusa se ti interrompo, sì, ma certo. La popolazione, i cittadini sapevano che si trattava di donne e bambini, perché qualcuno può magari, non so, avere qualche timore se arrivano giovani uomini tra i 20, 40 anni, 35 anni, cioè magari potrebbero a un certo punto delinquere se non hanno altro da fare, eccetera, ma sapevano che si trattava di donne e di 8 bambini? Allora, sapevano, ma c'è stato un problema di comunicazione, nel senso che hanno saputo tutto all'ultimo. Sapevano che si sarebbe trattato di un gruppo di donne, ma in particolare il gestore dell'ostello ha saputo di questo arrivo, quindi della requisizione del suo locale, da un amico. E si è rivolta ai carabinieri questa ragazza e la risposta dei carabinieri è stata signora ha qualche giorno per far sapere alla cittadinanza che qui stanno per arrivare 12 profughi. Quindi il problema è più a livello di comunicazione. Questo problema c'è stato di comunicazione, c'è evidentemente, stato, no? Ammesso da varie parti, anche dai sindaci e anche dalla conferenza stampa di questa mattina in prefettura Ferrara. Mattia, dimmi una cosa, il sindaco di Ferrara, sempre Tiziano Tagliani, ha detto che a lui è sembrata una protesta che potrebbe essere stata montata ad arte dalla politica per cavalcare un po' questo problema. Il problema che a Ferrara è sentito, nel senso che il sindaco Tiziano Tagliani non più di un mese fa aveva già fatto sapere tramite una conferenza stampa di non essere più disposto ad accogliere altri profughi perché la situazione in città è diventata insostenibile. Il problema qual è? Che nella provincia di Ferrara ci sono diversi comuni che non accettano i profughi. Si è creato quindi una sorta di braccio di ferro tra istituzioni e inevitabilmente ci sono movimenti politici che cavalcano la tigre. Fra l'altro è interessante questo aspetto, che il sindaco di Riace, questo comune in Calabria, no, che tra l'altro non è diciamo non è la prima volta che si offre per ospitare migranti, il sindaco ha detto: vengano da noi, offriamo loro case e possibilità di un lavoro. E questo centro vicino a Reggio Calabria, tra l'altro, negli ultimi anni ha accolto decine di migranti fornendo loro anche un alloggio. Sono capaci evidentemente di farlo, mentre è curioso, questo per il piccolo appunto comune di vicino a Reggio Calabria, mentre è curioso che il sindaco di Firenze Nardella ha fatto inviare una lettera al prefetto di Firenze affinché solleciti il Ministero degli Interni a non inviare ulteriori richiedenti asilo sul territorio toscano fino al riequilibrio delle percentuali con le altre regioni. Quindi il sindaco di Firenze Nardella ha detto: noi per il momento grazie, ma non ne vorremmo più. E intanto Renzi, non so se hai sentito Matteo, sì, Mattia, certo, anche tu, che ha detto questa sera nella registrazione di Porta a Porta, dice: non so giudicare, è difficile giudicare, perché da una parte la gente sarà anche stanca, un po' esacerbata, dall'altra però si tratta di 12 donne, poi comunque alla fine sono stati sistemati tra l'altro? Sì, in diversi comuni del territorio, in microgruppetti da 3, 2, 1. Però bisognerà vedere, come diceva il prefetto di Ferrara, se è vero che arrivano queste 400, altre 450 persone, quali altre situazioni si creano. Ti ricordo che pochi giorni fa il prefetto di Ferrara ha detto che la situazione è ormai, anzi ha già superato i livelli di guardia, la situazione è pesantissima, non sa più come fare, non sanno più come trovare alloggi, e almeno per quel che riguarda la provincia di Ferrara, quello di ieri nella fazione di Gorino è stato il primo esempio di requisizione di un locale privato. Una questione complessa, certo. Sì, assolutamente. Questione complessa, tanto è vero appunto come dicevo, che Renzi stesso dice: non so bene come giudicare. Grazie intanto a Mattia Sansivini del Resto del Carlino. Grazie, buon lavoro Mattia. Grazie a voi, buonasera, buon lavoro anche a voi. Ciao, grazie. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso ve le ricordo velocemente le notizie più importanti, mentre continuate a interagire sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, numero per SMS e WhatsApp. Sempre su questa questione appena affrontata sulle barricate a Goro e a Gorino in provincia di Ferrara, dice Piero: è una vergogna, purtroppo l'intolleranza verso gli immigrati è sempre più diffusa, questa è la realtà. Salvatore scrive: credo che la crisi abbia incattivito le persone, forse c'è anche la paura che ne arrivino altri, rifiutando la globalizzazione si rifiuta anche la solidarietà. Le notizie più importanti, vi dicevo, i costi della politica. La Camera vota per il rinvio in commissione della proposta di legge taglia stipendi del Movimento 5 Stelle, scintille in aula oggi tra la maggioranza e gli esponenti del movimento. Barricate antiprofughi a Goro, appunto tema appena discusso dopo le proteste dei cittadini, via le migranti con i loro bambini. Il ministro Alfano commenta: quel che è accaduto non è lo specchio dell'Italia. Renzi dice: difficile giudicare. La manovra economica è stata inviata ufficialmente, la lettera della Commissione Europea con la quale si chiedono chiarimenti all'Italia sulla legge di bilancio 2017. L'Europa tutta aiuti l'Italia sui migranti, avverte Renzi, o il governo è pronto a porre il veto sul bilancio europeo del 2017. Monte dei Paschi, tonfo del titolo a Piazza Affari nel giorno della presentazione del piano industriale. Il Vaticano sdogana la cremazione ma pone diverse condizioni, via libera del Papa al documento. Spagna, il re incarica il primo ministro uscente Rajoy di formare il nuovo governo. Per il calcio, anticipo di Serie A con Genoa-Milan, e è sempre in vantaggio il Genoa sul Milan per 1-0. Europa 24 notte. Per quanto riguarda lo spazio europeo, parliamo della seconda giornata di smantellamento della cosiddetta giungla di Calais in Francia. Sono partiti oltre 2.000 dei 6.500 migranti. Per ora tutto è avvenuto senza incidenti, ma sentiamo cosa ha rappresentato il campo di Calais in questi anni. Da 2 anni in Europa esiste un luogo senza regole, dove ci si riunisce in clan, dove la violenza e la promiscuità dilagano. Non a caso si chiama giungla, la giungla di Calais. Una bidonville nel cuore dell'educata e civile Europa, con migliaia di uomini, donne e bambini disposti a restare al freddo, a vivere nel fango, pur di tenere viva la speranza di approdare un giorno in Gran Bretagna, saltando su un camion diretto verso il tunnel sotto la Manica. Ma un mese fa, l'annuncio del presidente francese Hollande: nous devons démanteler complètement, définitivement, le campement de la Lande. Smantelleremo la giungla, ha promesso Hollande. Ogni vergogna però ha un suo inizio e l'inizio per Calais risale al 2014, quando un gruppo di migranti ha iniziato a bivaccare nella distesa sabbiosa e umida a pochi passi dalla tangenziale, a 7 chilometri dal centro città e a 9 dall'ingresso del tunnel sotto la Manica. Niente elettricità, niente acqua per questa gente. Il centro statale Jules Ferry era aperto fino alle 19 e tanto bastava, secondo le autorità, a garantire ai migranti i servizi necessari. Dopo pochi mesi erano già 1500 persone tollerate dalla sonnolenta Calais, cittadina di neanche 73.000 anime, con un tasso di disoccupazione che tocca il 16%. Nel 2015 i migranti sono arrivati ad essere 5.000, sono stati installati bagni chimici, qualche palo della luce, 4 punti d'acqua. L'odore dell'industria chimica della zona e della spazzatura non raccolta accompagna le giornate dei migranti, che vivono ammassati in tende e baracche di lamiera. Nicola Scotto di Melting Pot a Calais. Davanti a me in questo momento vedo baracche, tante tante baracche, tante tende. La baraccopoli intanto è cresciuta, sfiorando le 12.000 presenze ad agosto 2016. Hanno iniziato a sorgere ristoranti, mini market, caffè, persino un barbiere, una scuola. Tutto bene quindi? Affatto, la giungla è tanto tranquilla di giorno quanto brulicante e violenta di notte. Per i migranti la violenza è parte integrante della vita quotidiana e assume molte forme, dalla prostituzione alle risse. Anne-Lizzie Curie, capo progetto di Medici Senza Frontiere a Calais. Le persone che si sono convinte a partire in realtà sono molto stanche. La situazione nella giungla di Calais è disastrosa. Fa freddo, piove dentro le tende, quindi la prospettiva di andare in un posto caldo con dei servizi igienici ha convinto molti a partire. Il fatto è che poi spesso tornano a Calais. È già successo e nessuno è in grado di garantire che non capiti ancora. In un anno un terzo di quelli che avevano accettato di andare nei campi è tornato nella giungla di Calais. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Tanti vostri messaggi, però devo subito collegarmi con Dario Ricci per capire se questa partita Genoa-Milan va avanti sempre a vantaggio del Genoa. Dario? Sì, sempre a vantaggio del Genoa quando siamo al sesto della ripresa. Adesso il Milan ha trovato un bel tiro da fuori dai 25 metri con Bonaventura, bravo Perin a deviare in calcio d'angolo, ma Genoa sempre in vantaggio grazie alla rete di Ninkovic, colpo di testa del serbo all'undicesimo minuto, quindi Genoa 1-0 quando siamo al settimo della presa, cara Roberta. Grazie caro Dario Ricci, ancora tempo per qualche messaggio molto brevemente. Per esempio Max Taxi, continuate anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte a scrivere le vostre opinioni anche alla fine della trasmissione, ma anche al 349-238-6666 finché dura, dice Max Taxi: l'immigrazione cesserà di essere un problema quando ci sarà qualcuno che non lucrerà più su di essa. Sì, in parte sì, ma non è soltanto quello, magari bastasse questo. Insomma, Max, è un problema molto molto più ampio, radici lontanissime. Direi che ci dobbiamo lasciare per aggiornarci brevemente come sempre alle 22.